troppo questa canzone per fare una dedica. Anche noi il 16 saremo in piazza assieme alle nostre e ai nostri AEC, perché senza di loro la scuola sarebbe più noiosa, e gli dedichiamo una canzone. Allora, questa canzone che dedichiamo si chiama Gypsy Bubi Tibor Leva. Thank you. E ora passiamo alla canzone Scooby-Doo. What's in your Scooby? Vabbè, Scooby-Doo, dai, facciamo prima. Ballo. Sento ancora Raffaella Carra, ballo. Sensazione. Ok, buon ascolto. Pensate che io questa canzone me la ricordo ancora, che la sentivo quando ero in pancia di mia madre. Every insieme alla canzone Holly Dolly Song. Holly Dolly Dolly Song. È vero, Nina mi ha corretta. Brava Nina. Oddio, però non so come si traduce. Donatella. Thank you.

Saluto tutti quanti quelli della radio e anche tutti quelli dell'Ateneo, perché dopo questa canzone la radio è finita. Quindi volevo dirvi che la prossima puntata radio ci saranno molte più dediche, molte più canzoni. Un saluto speciale a Alessio Ortoppa da Barcellona, dai e forte fratello mio, ti volemo bene. Ciao. Vabbè, vi lasciamo in ascolto questa canzone e poi passeremo al punk, cioè passeremo al punk. Quindi ciao Radio Risacca, bimbi dal basso, balla coi pupi, alla prossima puntata. Bacio grande pure a Dieghetto, Damian, dai e forte, siete punk. Traccia extra in attesa di Azzotino e taglie de punk hardcore. Saluto speciale a tutta Radio Risacca e chi ci ascolta e chi ci supporta e chi ci sopporta.